Walt Disney Sen, il parco divertimento di Disney. Siamo in una serie di motel e alberghi che sono stati costruiti all'epoca proprio per quelli che sarebbero andati al Disney Center. Invece adesso lì ci abitano delle famiglie americane e noi seguiamo la storia di una mamma che ha una bimba, che ha due amici, e che questi tre bambini scorazzano tutta l'estate in giro a destra e a sinistra per questo paesaggio bellissimo della Florida, giocando e scherzando. E questo fanno i bambini. In realtà poi c'è una situazione un po' più... gli adulti invece hanno una serie di situazioni esistenziali un po' più complicate, non hanno soldi e quindi si arrangiano. Quindi è uno spaccato di vita americana dove è un film molto neorealista, molto realista, dove ci sono delle avventure, alcune comiche, alcune drammatiche, alcune divertenti. Sembra un po' un film... Devo dire la verità, sembra un po' una commedia all'italiana, un po', sai, di quelle dove si alterna dramma e divertimento. Sì. Senti Valerio, dove lo hai scovato il film? Questo film era a Cannes, sì. L'anno scorso, l'abbiamo visto, l'abbiamo comprato, un film che ha avuto una meravigliosa carriera. Sì. Ha avuto delle nomination al Golden Globe, ha avuto delle nomination all'Oscar, ha avuto un sacco di premi. Questo regista è un regista americano di 45 anni, indipendente, che ha fatto sempre film molto indipendenti, è una grande promessa del cinema americano, l'abbiamo portato al Festival di Torino, dove ha chiuso il festival, dove ha avuto un grande successo, ma non è un film da festival, nel senso che sono dei film da festival di autori, che sono dei film molto difficili, molto intellettuali, molto psicologici, molto problematici. Questo è un film pieno di sole, di vita e di vita vera, cioè di vita vissuta, con problemi e anche cose allegre, rapporti e felicità e tristezze. Quindi racconta la vita di queste persone e soprattutto di questi meravigliosi bambini. Senti, era già arrivato qualcosa di suo in Italia? Dunque no, è perché lui appunto è molto indipendente. Lui ha fatto un film che ha avuto molti premi, anche quello, che si chiamava Tangerine, sì. Che era uno spaccato di vita di due transessuali in California con le loro avventure. Credo che, e dunque, poi l'ha comprato Netflix questo film per tutto il mondo, e quindi quando un film viene comprato da Netflix è più difficile poi farlo uscire al cinema, perché i diritti televisivi sono già venduti e quindi ci sono minori possibilità di sfruttamento economico. Quindi penso che questa sia la ragione per cui il film non è stato comprato per il cinema, perché era già venduto per la televisione. All'estero il pubblico come ha risposto? Ti volevo dire, aspetta, sì. Una cosa importante, che questo regista, questo Tangerine, l'ha girato con un telefonino. Sì. Che è che è la cosa che lo ha reso in qualche modo famoso, perché era un film molto bello, tecnicamente molto molto riuscito, e quando si è capito che lui l'ha girato con un telefonino si è capito che lui ha un enorme talento. Sì. All'estero è stato venduto in tutto il mondo, è andato molto bene in America, molto bene in Francia, molto bene in Inghilterra, dovunque è uscito è andato molto bene, quindi speriamo che anche in Italia abbia successo. Senti, che tipo di uscita sarà domani? Dunque domani sono 70 copie, è un film di qualità, quindi non esce nei multiplex, non è un film per il pubblico così che va a vedere i film d'azione, i film commerciali, le commedie italiane, eccetera, eccetera. Esce in tutta Italia, in tutte le città capoluogo di provincia e in tantissime province, però non esce nei multiplex, quindi esce con 70 copie. Allora, ricordiamo Un sogno chiamato Florida di Sean Baker, da domani 22 marzo. Florida, non si dice Florida. Florida lo dico in messicano. Ah, ecco, perché tu sei messicano. No, no, no, però originariamente... No, rispetto della lingua, hai ragione, bravo. Va bene. Per Cinema di Valerio De Paolis, che ringraziamo. Valerio, ci sentiamo presto. Buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie infinite. Ciao ciao. Con Michele Crocchiola di Movies Inspired per parlare di Insidious di Philippe Van Leeuw, che sarà in uscita in sala il prossimo 22 marzo. Michele, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Allora, non so se ho pronunciato bene il nome del regista, però insomma, intanto raccontiamo di cosa si tratta. Beh, il nome del regista, lui è belga fiammingo, quindi direi che te la sei cavata molto bene. E dal Belgio lui ha voluto raccontare una storia tutta girata a Damasco, la storia di una famiglia che rimane chiusa in un appartamento di Damasco con la guerra che in qualche modo si avvicina, ma rimane sempre fuori. Tutto il film è girato all'interno di una giornata, quindi in 24 ore della vita di queste persone, e tutto girato all'interno di questo appartamento. Ha sia l'elemento claustrofobico di stare dentro l'appartamento chiuso con la guerra che sta fuori, vista attraverso le finestre, le interazioni con i vicini, eccetera, sia il grande respiro del cinema che sa raccontare una grande storia molto più delle singole persone che la vivono. Senti, mi dicevi dell'origine del regista, è curiosa questo trattamento di un argomento così lontano nello spazio. Il regista aveva e ha in parte ancora molti amici siriani e libanesi, lui stesso ha soggiornato per un po' di tempo in Libano, e quindi la sceneggiatura è stata scritta partendo da un'idea di un suo amico regista, il cui padre è rimasto chiuso dentro casa propria durante i primi mesi e anni della guerra e non usciva mai. E da questo spunto ha buttato giù un soggetto che poi è stato scritto con alcuni registi esuli siriani in Europa. Quindi c'è molto della realtà reale, direi, sì. Del conflitto. Senti, che è un film che ha già avuto dei riconoscimenti all'estero. Sì, direi il più importante, perché poi stiamo parlando con gli ascoltatori, che è anche un potenziale pubblico, ha vinto il premio del pubblico al Festival di Berlino l'anno scorso, è stato molto amato e ovviamente è stato anche ha molto colpito il pubblico, soprattutto tedesco, perché eravamo l'anno successivo alla grande accoglienza che la Germania ha fatto agli esuli siriani. Senti, che tipo di uscita avete pensato? Ma il film esce in una cinquantina di copie in tutta Italia, quindi da nord a sud più o meno dovrebbe trovarsi ovunque. A Roma siamo dai nostri amici del Farnese, come ci capita spesso, ma siamo contenti perché siamo in centro. E basta, direi questo. Senti Michele, tu vedendolo, quali sono le cose che hai più apprezzato? Le cose che mi sono piaciute di più è l'attrice principale, che si chiama Abbas, che il nostro pubblico sicuramente conoscerà, certo. Grande attrice palestinese, sì. Molto attiva anche nei film europei. Peraltro lei e un altro attore più sconosciuto sono gli unici due attori professionisti, perché tutti gli altri, Philippe Van Leeuwen ha voluto che fossero esuli siriani, quindi ha fatto un casting in Europa con i siriani che ha trovato, e quindi tutti gli attori sono non professionisti e sono di origine siriana. Senti, di Van Leeuw conosciamo già altri lavori in Italia? No, perché lui, questa è la sua opera seconda e il film precedente non è stato distribuito, però possiamo dire lui ha fatto il direttore della fotografia in un film di Bruno Dumont che si chiamava L'ottavo giorno di qualche anno fa, e quindi in realtà lo conosciamo ma sotto altre vesti. Prima dicevamo del premio del pubblico, e il pubblico in sala fuori dall'Italia come ha reagito? Ha reagito bene, perché il film, probabilmente per la sua stringente attualità, e tuttora permane purtroppo, incuriosisce molto, e quindi là dove è uscito si è fatto notare, diciamo così. Bene, allora ricordiamo Insidious di Philippe Van Leeuw in uscita in sala il prossimo 22 marzo per Movies Inspired. Michele Crocchiola, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Bene, grazie a voi sempre dell'attenzione che date al cinema. Voglio solo lasciarvi con un invito a cercare il poster, la locandina, che è un disegno che abbiamo mantenuto, è il disegno deciso a livello internazionale e è raro vedere manifesti disegnati, per me sono sempre molto interessanti e quindi invito di googlare, come si dice, la locandina di Insidious. Benissimo. Allora un abbraccio Michele e alla prossima. A presto, grazie a voi. Con noi Alice Panada di Notorious Pictures per parlare del film Hostiles di Scott Cooper in uscita in sala il prossimo 22 marzo. Alice, ben trovata. Buongiorno. Raccontiamo un po' subito per sommi capi la trama. Assolutamente sì. La trama parla di questo capitano leggendario che è Joseph Blocher, interpretato dal premio Oscar Christian Bale, che deve scortare il capo indiano Falco Giallo dopo una lunga prigionia nella sua terra natia per passare gli ultimi giorni della sua vita in famiglia e in pace. Quindi il film è ambientato nel 1882, parliamo del New Mexico, anche se in realtà l'ambientazione è abbastanza marginale, nel senso che è ambientato nel West, ma affronta tematiche che sono estremamente attuali, quindi possiamo dire che affronta il tema dell'ostilità, che potrebbe essere l'ostilità di oggi. Senti, cosa ti ha colpito di più di questo lavoro? Innanzitutto Christian Bale e Rosamund Pike fanno un'interpretazione meravigliosa in questo film, soprattutto Rosamund Pike vista dal punto di vista femminile, dal punto di vista di una donna. Ha un'interpretazione incredibile, vista dal punto di vista femminile di una donna con famiglia è veramente fortissima. Senti, di Scott Cooper in Italia cosa ne sappiamo? Assolutamente sì, era arrivato Black Mass. Ok. Senti, che tu sappia i risultati all'estero del film, come è stato accolto dal pubblico? Allora, all'estero sta andando bene, è accolto come l'abbiamo accolto noi come distribuzione, quindi è un film d'autore, ma è anche un film molto trasversale, adatto a tutti. Quindi come la nostra distribuzione italiana va sia nei circuiti cittadini che nei multiplex e nelle province, anche all'estero diciamo che è stata un po' una distribuzione capillare e è stato percepito bene. Senti, che tipo di distribuzione avete scelto? Dove lo avete contattato il film e poi come uscirà in sala? Come anticipavo, abbiamo una distribuzione abbastanza capillare, sia nei circuiti cittadini, quindi per prendere quelle sale un po' più di qualità, quindi con della programmazione più d'essai, perché è un film molto profondo, molto bello anche per un pubblico ovviamente che cerca qualcosa di un po' più raffinato, ma andiamo anche nei multiplex, quindi le province italiane, perché comunque è un film molto trasversale che tocca temi cari a tutti e siamo contenti di riuscire a raggiungere un po' tutta Italia. Benissimo. Ricordiamo allora l'appuntamento con Hostiles di Scott Cooper in uscita in sala il prossimo 22 marzo con Notorious Pictures. Alice Panada, un ringraziamento, un saluto e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Con Giulia Esposito di Lab 80 per parlare di una doppia uscita per il 22 marzo, Fixer e Il Legittimo, entrambi di Adrian Sitaru. Giulia, ben ritrovata. Grazie mille.

svelo la fine, certo. Perché comunque si tratta di un thriller. Questo film, pur essendo un dramma, è girato proprio con i canoni del thriller sociale. E questo, insomma, in breve è questo. Vuole esprimere, è un film che è dedicato agli allevatori, ma a tutto il mondo, e racconta proprio l'amore che l'uomo può avere per gli animali. Lidia, cosa ti è piaciuto di più del film? Cosa mi è piaciuto di più del film? Mi è piaciuto di più proprio questo eroismo che questo giovane allevatore ha, perché di eroismo si tratta, e questa sua tenacia e questa sua situazione nel voler salvare tutte le sue vacche e quindi la fattoria di famiglia, e quindi diciamo la sua vita in qualche modo. Senti, volevo chiederti di Hubert Charuel, conosciamo altro in Italia? No, è il suo primo film, ha fatto dei cortometraggi e dei documentari, però era il suo primo film, infatti è stato premiato con il César come miglior film, primo film, quindi non è mai uscito nulla. È un giovanissimo regista, 32 anni. Ecco, a questo proposito, diversi riconoscimenti in Francia ma anche altrove, e poi un patrocinio importante di Slow Food. Sì, esatto, abbiamo con noi Slow Food, che appunto ha voluto accordarci il patrocinio, proprio perché si tratta degli piccoli allevatori, e quindi loro, come tu ben sai, sostengono tutti i piccoli allevatori che rappresentano poi le tradizioni, che portano avanti le tradizioni locali, insomma. Sì, quindi sì. Sono con noi, abbiamo cercato di fare una promozione con loro anche sul territorio, perché loro sono presenti in tantissime zone dell'Italia, direi ovunque, quindi abbiamo fatto una promozione capillare. Sì. Senti Lidia, che tipo di uscita sarà il 22? Bella domanda. Dunque, allora, noi abbiamo una uscita il 22 nel nord Italia, quindi Veneto, Lombardia e Piemonte, mentre Toscana e anche Lazio. E in altre regioni come la Toscana, l'Emilia Romagna e al sud probabilmente, cioè anzi non probabilmente, usciamo il 29 in alcune realtà. Però l'uscita è stata congegnata in questo modo: ovviamente nelle grandi città dove normalmente usciamo, Roma, Torino, Milano eccetera, e poi però anche nelle province, proprio seguendo il modello della distribuzione francese, che è stata super capillare, è andata benissimo, perché hanno distribuito il film da settembre, pensa che è ancora nelle sale, quindi, insomma, è stato un film di forte richiamo. Senti, quindi per l'uscita in tutte le regioni ci dai tutti i riferimenti web di Nomad per saperne di più? Certamente, abbiamo oltre il sito ovviamente, però soprattutto la nostra pagina Facebook, che è molto attiva, e stiamo facendo già da tempo delle anteprime promozionali e anche così di diffusione, che abbiamo già appunto indicato sulla nostra pagina Facebook, e metteremo poi tutte le uscite con date eccetera, e poi su My Movies come d'abitudine, insomma. Benissimo. Quindi questo. Benissimo. Io ci tenevo a dire che comunque è un film che piace ai giovani, nonostante l'argomento possa sembrare un po' particolare, e è stato scelto da un giovane che appunto lavora con me e che ha 30 anni, e soprattutto perché è un film di genere, praticamente è un thriller, e diciamo, è un film di forte tensione, però poi è un film molto molto vero. Io lo definirei un thriller realistico, cioè proprio vero, perché Hubert è nato in questa fattoria, il regista, e quindi conosce bene la realtà. Bene, allora ricordiamo Petit Paysan, un eroe singolare di Hubert Charuel, in uscita in sala il 22 marzo con Nomad Entertainment. Un saluto a Lidia Genchi e alla prossima. Grazie mille, grazie Federico, grazie. Ciao. A presto, ciao.

far convergere il film in un'idea unica di cosa sia il terremoto, di cosa sia vivere in zona sismica, di cosa sia quello che ci attende in un certo senso. Il punto evidente, o meglio, l'idea unica esiste ed esiste un fatto comune, il fatto di dover convivere con questo tipo di esperienze. Ma il modo di vivere è talmente soggettivo. Tutte le persone che io in qualche modo sono andato a scegliere, anche con cui sono andato a interagire con un modo più forte, in realtà sono persone non comunissime, hanno dei modi di vivere la loro esperienza diversa dall'uomo medio che si vede al telegiornale, per capirci, dove in realtà invece viene in qualche modo scelto proprio quello più esemplificativo. Si chiede semplicemente della notte, dello shock, di queste cose qui. Mm-hmm. Nel mio caso è stato un approccio diverso. Sì. Senti, che percorso dopo novembre, dopo il Torino Film Festival, stai facendo proiezioni accompagnando il film? Senza in modo un pochino casuale e caotico, se vogliamo, ma sono in qualche festival, sono ad Alessandria, sono in vari festival italiani, continuo ad andare, mi sono chiamato. Mamma, che bel tempo. Da qualche giorno andiamo, dopo il pescavo di Marocco, ho provato a fare la prima internazionale. E, insomma, vediamo un attimo come si muoverà il film. Senti, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, ma il sito web del film è l'associazione che è carico del film, www.dansacro.org. E lì si può trovare tutto, si possono avere anche i suoi contatti per contattarmi e avere qualsiasi altra informazione riguardo su. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con il documentario Appennino di Emiliano Dante alla rassegna DocuD, Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara, il prossimo 22 marzo. Emiliano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Va bene, grazie mille, un abbraccio. Ciao. Siamo in collegamento telefonico con Federico Francioni, co-regista di due lavori, Tomba del Tuffatore, The First Shot, che saranno in programmazione all'Apollo 11 a Roma il 22 marzo. Federico, ben trovato. Grazie, ben trovati anche a voi. Senti, ce ne parli un po' di questi due titoli? Sì, sono un film, Tomba del Tuffatore, è un film breve, un cortometraggio, un film di mezz'ora che abbiamo fatto in Costiera Amalfitana, è una sorta di sinfonia visiva, un film dove non è che si parla molto, però c'è tutto un racconto del territorio, anche a partire dall'architettura, a partire dalla figura del tuffatore di Paestum, che tra l'altro è un'antica tomba greca che è stata ritrovata nel 68, quindi quest'anno è proprio un po' l'anniversario di questa scoperta, anche un anno mitico per far riemergere questa figura del tuffatore, che raccontava un po' questo passaggio dalla vita alla morte, no? Sì. E quindi a partire da questa idea abbiamo sviluppato un po' un racconto visivo che parlasse della costiera amalfitana, di questo rapporto tra vita e morte, tra desiderio e spiritualità in un certo senso. Come era partito questo progetto? Io e Iancene eravamo studenti alla Scuola Nazionale di Cinema e ci trovavamo in Costiera Amalfitana per fare tutt'altro, per fare riprese dei concerti, hanno mandato a fare gavetta, ecco. Solo che non ci siamo proprio accontentati di restare lì, di fare la vacanza, abbiamo deciso di fare un film, alla fine è venuto bene, e per fortuna l'abbiamo fatto girare. E poi l'anno dopo, visto che avevamo lavorato insieme quasi per caso su questo progetto, abbiamo deciso di continuare insieme e Yan Cheng aveva un progetto a cui teneva particolarmente, lui aveva passato un periodo in Cina durante il Capodanno cinese e aveva parlato con alcuni suoi amici e quando è tornato in Italia ha detto: guarda, questa volta è stato strano, ho sentito che c'era qualcosa che non andava, quasi un senso di angoscia, qualcosa che mi ha un po' colpito. E quindi questo film che abbiamo fatto in Cina, The First Shot, è nato un po' da questo suo bisogno di incontrare questi suoi amici e capire quanto fosse rimasto del passato, no, in loro, quanto fosse rimasto del rapporto col passato, soprattutto perché è una generazione che è nata dopo l'89 di Tiananmen, quindi diciamo è una generazione che tante cose non le ha conosciute. Senti, questo, il titolo a cosa si deve? Il titolo fa riferimento alla prima, diciamo, il primo sparo rivoluzionario che c'è stato nel 1911, da cui, diciamo, porta alla caduta dell'impero e apre a tutto il secolo di trasformazioni del Novecento che ci sono state in Cina, quindi poi anche la rivoluzione culturale e quello che è arrivato dopo. E tutto questo idealmente per noi, e soprattutto anche per Yan Chen, per la sua generazione, è rimasta quasi un'idea così vaga che si è chiusa dopo Tiananmen, con Tiananmen diciamo. Dopo Tiananmen si assiste a qualcosa di diverso, forse diciamo un più capitalismo avanzato, di trasformazione continua, ed è esattamente il mondo in cui sono nati e cresciuti questi ragazzi. E infatti una cosa che diciamo, su cui abbiamo cercato di porre anche il nostro sguardo, porre l'attenzione, era soprattutto fare un film in Cina, ma non soltanto un film che parlasse della Cina. Diciamo, era soprattutto cercare di cogliere il senso di spaesamento di questi ragazzi rispetto a un passato che è diventato illeggibile. Beh, lì, in quel caso, nel caso della Cina, lo vedi, è plastico, no? Perché il passato, diciamo, Tiananmen viene censurato e comunque anche a livello architettonico, a livello urbanistico, questo cambiamento continuo, le città vengono distrutte, ricostruite e quindi all'improvviso nel giro di 2 o 3 mesi perdi completamente i riferimenti. Però diciamo, se, secondo noi, almeno l'idea che poi ci siamo fatti, è che questo sia un processo in atto a livello globale, cioè chiaramente anche in Italia si assiste a questo, in modo magari meno diretto, però penso ci sia un problema di identità e anche di spaesamento delle giovani generazioni. Sì. Senti Federico, questo binomio artistico per questi due lavori, come lo hai vissuto e ci sarà anche un futuro? Allora, no, è molto interessante il modo in cui lavoriamo, perché in realtà lavoriamo in modo un po' disordinato, un po' caotico, diciamo, abbiamo delle idee un po' vaghe che piano piano andiamo ad affinare sempre di più, no? Sì. Partiamo sempre da un elemento mitico, in un caso questa figura del tuffatore, nell'altro questo primo sparo, Tiananmen, e poi dopo cerchiamo di sviluppare un discorso. Per esempio, non ci sono ruoli fissi, non è che c'è qualcuno alla camera e un altro al suono, diciamo, ci scambiamo i ruoli a seconda della situazione, a seconda dell'umore, di quello che vogliamo guardare. E anche il montaggio è curiosa la cosa perché diciamo, ognuno si monta delle sue sequenze e poi le passa all'altro, quindi diciamo, noi dialoghiamo così, direttamente sul materiale. Ok. Chiaramente parliamo, ci confrontiamo, però anche il fatto che Yan Chen è cinese, io sono italiano, abbiamo anche due sensibilità diverse, quindi diciamo, il nostro punto di incontro è unicamente dentro l'immagine, quindi dentro il racconto. Sì. Senti, qui È un modo interessante. Per il certo. futuro, per il momento non abbiamo delle idee, ma non abbiamo dei progetti concreti in atto, però ci piacerebbe continuare a lavorare insieme, questo sì. Ok. Senti, ci dai anche dei riferimenti web per saperne di più su questi due lavori, ma anche più in generale sulla vostra attività? Guarda, noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama The First Shot, Cine Voyage. E diciamo lì ci sono tutte le informazioni, abbiamo le date, poi diciamo, questo film ha avuto un po' di fatica per riuscire, per essere visto e abbiamo avuto la fortuna, il miracolo di riuscire ad andare a un festival importante come Pesaro e di vincere il festival. E questa cosa ha aperto una serie di possibilità, tra cui anche quella di tentare di fare questo piccolo tour per far vedere il film a un pubblico, perché la cosa che ci interessava di più non Certo. era tanto continuare a far girare film nei festival, era proprio veramente andare in queste realtà, incontrare il pubblico città per città, le persone che magari non vanno più al cinema. Oggi siamo a Benevento, che cioè, è una città dove non esistono più cinema. Hanno chiuso tutti i cinema, esiste solo una multisala che però è fuori, a mezz'ora da qui. E abbiamo scoperto che qui a Benevento c'è uno spazio gestito da dei ragazzi che fanno dei corsi, fanno dei laboratori e hanno creato una piccola saletta. Ed è una cosa meravigliosa, io ho detto, loro mi hanno detto, guarda, qui al massimo abbiamo un pubblico di 15, 20, 30 persone, però diciamo sono tutti attivi, sono tutti sguardi ostinati, e io ho detto, va subito, veniamo. Certo. abbiamo bisogno di questo, noi certo. abbiamo bisogno di curiosità, questo è il problema grande del nostro paese, che manca la curiosità, certo, quindi sì. siamo buttati in questa avventura cercando di vedere che succedeva, insomma. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con Tomba del Tuffatore, The First Shot, due lavori di Federico Francioni in coregia con Yan Cheng all'Apollo 11 a Roma il 22 marzo. Federico, io ti ringrazio. Sì, sarà a Roma sempre anche il 28 marzo al Detour. Perfetto, perfetto. E ci sarete anche voi all'incontro a seguire del o precedente o subito dopo la proiezione, vero? Sì, sì, sì. Ok. Quindi venite, venite numerosissimi, abbiamo bisogno di voi. Ciao Federico. Ciao, grazie, grazie. Siamo in compagnia di Giuseppe Montagnese di Amnesty International per parlare del primo Amnesty International Human Rights Film Festival dal 23 marzo al 18 maggio al Cineclub de Tour a Roma. Giuseppe, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie a Federico per avermi chiamato. Dunque, questa idea nasce ad aprile dell'anno passato, dal momento che le mie due grandi passioni sono sempre state il cinema e i diritti umani. Da qui l'idea appunto di creare una rassegna cinematografica sui diritti umani. E questo tipo di rassegne nel Lazio non esistono, fanno solitamente solo qualche serata unica. Qui in Italia abbiamo qualche rassegna in questo ambito, solitamente nel nord Italia. Così ho proposto al gruppo Roma Centro di Amnesty International questa mia idea. Questa rassegna si svilupperà su cinque titoli, titoli che sono arrivati in Italia. Dunque, attraverso un team specializzato nella traduzione di sottotitoli abbiamo tradotto tutti i dialoghi e quindi daremo la possibilità al di seguire questi cinque capolavori premiati in moltissime rassegne europee e mondiali al Detour di Roma. Ok, allora ricordiamo quali sono questi titoli? Sì, allora iniziamo venerdì prossimo con La Manzana d'Eva del regista andaluso José Manuel Colón Armario. La Manzana d'Eva tratta il tema delle mutilazioni genitali femminili. Questo film è recentissimo, è di settembre 2017 e fra gli ospiti avremo l'associazione Ius & Nomos e soprattutto avremo il regista che oggi è atterrato da Madrid proprio per presentare il suo lavoro. A seguire avremo il 6 aprile il documentario Where to Miss della regista tedesca Manuela Bastian, che tratta il tema della libertà della donna in India. A seguire il 20 aprile invece avremo A Cambodian Spring di Chris Kelly, che invece parla di quello che sta accadendo ora in Colombia, dove avremo protagonisti i tre difensori dei diritti umani che lottano per il diritto alla terra. A seguire invece avremo Detained di Anna Persson, che invece tratta il tema dei rifugiati. A questa rassegna verrà a parlare Valentina Calderone dell'associazione A Buon Diritto. Infine il 18 maggio invece ci sarà la proiezione di Transit Havana di Daniel Abma, che invece parla attraverso le storie dei suoi tre protagonisti, ci mostrerà com'è la vita reale di un transgender a Cuba. Ad ogni appuntamento, come dicevo, saranno presenti esperti dei temi trattati e ci sarà inoltre la possibilità di fare delle domande ai registi di questi preziosi documentari. Ok. Senti Giuseppe, la scelta dei titoli e delle tematiche? La scelta dei titoli, diciamo, è avvenuta tramite alcune mie esperienze all'estero, sia come membro della giuria, sia come semplice spettatore in alcune rassegne cinematografiche di diritti umani. Diciamo, molti di questi titoli li ho visti e premiati personalmente al Verdi International Human Rights Documentary Film Festival di Budapest, in particolare Transit Havana e Detained. Gli altri invece ho avuto modo di vederli in altri festival come semplice spettatore. Mi hanno molto colpito e siccome le tematiche sono molto attuali ho deciso di includerli in questa rassegna. Senti, si tratta di produzioni degli ultimi 2 anni? Più o meno? Sì, sono tutte molto recenti, non superano i 2 anni. Ok. Senti, ripetiamo allora i giorni della settimana e gli orari? Sì, dunque, iniziamo il 23 marzo con la Manzana d'Eva. La rassegna si sviluppa un venerdì sì e un venerdì no. Quindi abbiamo il 23 marzo la Manzana d'Eva, il 6 aprile Where to Miss, il 20 aprile a Cambogia Spring, il 4 maggio Detained e a concludere il 18 maggio Transit Havana. Per maggiori dettagli vale come portale di informazione il sito internet del Cineclub de Tours, immagino. Sì, o ancora meglio potete trovare tutte le informazioni necessarie sulla pagina Facebook Amnesty International Roma Centro, dove abbiamo creato un evento dedicato, dove potrete comunque scriverci e avere tutte le informazioni che volete. In ogni caso ci si vede questi venerdì alle 8:30. Se riuscite a prenotare, ancora meglio perché è prevista tantissima gente. Benissimo, allora alle 20:30. Giuseppe, io ti ringrazio, un abbraccio, ricordiamo l'appuntamento dal 23 marzo al 18 maggio al Cineclub de Tours con il primo Amnesty International Human Rights Film Festival. Grazie a te Federico e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. A presto, ciao. Grazie, ciao, ciao. Benvenuto Francesco Zarzana. Grazie, grazie all'invito, buona giornata a te. Allora, come regista di Vorrei dire ai giovani, che è stato presentato stamane a Roma, ci racconti un po' di questo progetto? Sì, è un film documentario, racconta la storia di Gina Boretti, una storia appunto assolutamente non conosciuta, una partigiana modenese che proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha aiutato, entrando nella resistenza, tanti soldati sbandati. Lei stessa è stata staffetta partigiana, è stata amputata di una gamba dopo un ferimento da parte delle Brigate Nere che attaccarono la sua postazione. Poi la vita di questa donna mi ha molto affascinato perché è stata una vita molto al servizio degli altri. Lei è diventata parlamentare nel 48, è stata tra le prime donne a entrare nel Parlamento nazionale, solo 45 donne su 630 deputati alla Camera, e ha svolto tutta la sua lunghissima vita con questa amputazione, con questa protesi che l'ha accompagnata, per raccontare ai giovani un po' che tutto quello che sono le brutture della guerra non devono più succedere e bisogna vivere bene la propria giovinezza, i propri anni. E ritenevo, lei è stata una delle fondatrici dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, credo che sia una di quelle storie di chi ha lavorato sempre un po' dietro le quinte, che però un po' nelle caratteristiche dei miei lavori, quando le piccole storie diventano le grandi storie. Senti, come hai deciso di farne un racconto filmato e come è strutturato? Ma diciamo la decisione è nata dal fatto che io io abito a Modena. Gina Borellini è nata e ha vissuto a Modena. ma questo mi aveva incuriosito perché a Modena c'è una stele che il comune ha eretto alla sua memoria, che fu come dire sfigurata da svastiche, da come dire, da disegni insomma poco belli. E allora mi sono incuriosito anche da questo episodio molto grave che è avvenuto. Ho cominciato ad approfondire questa figura, di cui comunque avevo sempre sentito parlare in città, ma in maniera come dire anche molto superficiale. Io ho voluto invece approfondirne la storia, scopro una storia di una donna straordinaria che ha fatto tanto per le donne, per i diritti, eccetera. Allora ho voluto strutturare un po' la mia maniera, sempre con delle parti di fiction che sono interpretate da Claudia Campagnola, che ha interpretato con grande sentimento la figura di questa donna, e affiancata a testimonianze dirette di persone che comunque a vario titolo l'hanno conosciuta, hanno lavorato con lei e ne manifestano proprio la sua grande sensibilità che ha caratterizzato il percorso della sua vita. Ecco, insieme alla sensibilità e anche in base al titolo che hai dato al tuo lavoro, volevo chiederti anche cos'è del suo pensiero e della sua azione che più ti hanno impressionato. Mi ha impressionato appunto da una parte la sua nitezza, dall'altra la risolutezza, soprattutto quando si trattava di ottenere diritti. Lei per esempio è stata la fautrice di un percorso che ha fatto sì che a Modena nel 1969 si aprisse il primo asilo nido pubblico italiano. Questo ha favorito tantissime giovani madri che avevano la grande voglia e ambizione di entrare nel mondo del lavoro, però avevano il problema di chi lasciare il proprio bimbo piccolo. Poi il volere da parte di Giambolini sempre parlare con i giovani, sempre parlare ai ragazzi, il titolo non a caso Vorrei dire ai giovani, che è un po' come dire il suo testimone che ha voluto lasciarci, e io cerco con grande timidezza di raccontarlo nel film come questo possa essere anche strumento di lavoro didattico. Credo che sia questo il primo obiettivo che mi sono posto nella realizzazione di questa pellicola. Stamattina è stato presentato a Roma e debutterà il 25 marzo a Modena al Book Festival, e poi ci sarà una fruizione, una proiezione pubblica, una distribuzione, un passaggio video? Certamente stiamo lavorando in questa direzione, e ci sono già diversi contatti. Dico soltanto, è chiaro, la prima proiezione ho la pubblica, ho piacere di farla a Modena, nella sua città, dove ci saranno anche i suoi familiari, ci sarà tanta gente che sta attorno a lei. Tenendo conto che la durata del docufilm è di 60 minuti esatti, dove per me è stato anche molto complicato raccontare questa straordinaria vita in soli 60 minuti, però da un punto di vista tecnico testimonia come questo sia già un prodotto televisivo. A questo punto ti chiedo anche tutti i riferimenti internet per saperne di più rispetto alla data del 25, ma anche al prossimo futuro di questo lavoro. Sì, sicuramente il sito del Book Festival è quello, perché il Book Festival è stato anche tra i promotori del film, che è www.bookfestival.it. Preciso che book è scritto BUK e non all'inglese. Il Book Festival è un festival letterario di cui sono direttore artistico dalla prima edizione. Il 24-25 marzo sarà l'undicesima edizione, e lì terremo sempre costantemente aggiornati e informati sia sulla proiezione modenese, che già so che alla prima proiezione ne seguirà sicuramente una seconda e una terza nel giro di pochissime ore, perché sappiamo già di quanta attenzione e curiosità c'è in città per questo lavoro, e poi soprattutto per i passaggi successivi di questo lavoro. Benissimo, allora Francesco, io ti ringrazio, un saluto, a risentirci presto. Grazie e buon lavoro a te e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Eccoci con Sergio Fant di Cine Agenzia per parlare dell'ottava edizione di Mondovisioni, documentari di internazionale 2017-2018. Al Cinema Spazio Oberdan a Milano dal 26 marzo al 19 aprile, ma non solo. Ben ritrovato, Sergio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, spazierà a livello nazionale questa rassegna, però intanto parliamo di cosa si tratta. Mondovisioni è un progetto che nasce all'interno del Festival Internazionale a Ferrara. Internazionale naturalmente è settimanale che conosceranno gli ascoltatori bene, e Internazionale da diversi anni organizza un evento, un festival, un weekend, tradizionalmente è il primo weekend di ottobre a Ferrara, molti ci saranno stati, il festival ha molto successo, è un'ottima occasione per ascoltare dal vivo ospiti, testimoni, giornalisti, insomma un bel weekend di idee, di scambi sempre più necessari, e all'interno di quel contesto è nato già 8 anni fa la rassegna Mondovisioni. Mondovisioni è una sorta di edizione di internazionale, di numero di internazionale che si svolge, che si sviluppa attraverso una serie di film, di immagini, quindi in movimento, di immagini del mondo che raccontano questioni di attualità, questioni di sociali, politiche, economiche, diritti umani e quant'altro. Ogni anno noi, ovvero Cineagenzia, insieme a Internazionale, scegliamo 8 film, 8 film che vogliono essere una sorta di istantanea di quelle che sono secondo noi 8 situazioni, 8 temi importanti da raccontare in quella edizione, e ben presto Mondovisione è diventato un progetto un po' che come la rivista, come Internazionale, viaggia ed è disponibile in tutta Italia durante tutto l'anno. Ecco, anche noi abbiamo fatto qualcosa di simile, perché Mondovisione è diventato ben presto una rassegna itinerante. Quindi il percorso di Mondovisione inizia ogni anno a Internazionale Ferrara a ottobre, però poi continua durante tutto l'anno. Abbiamo cercato di rompere un po' quello schema da festival per cui i film si vedono, più spesso si perdono subito e poi non si vedono più, e abbiamo cercato di trasformarlo in un progetto che assomiglia a qualcosa a metà tra un festival e un progetto di distribuzione. Quante sono le piazze toccate? Mondovisioni è partita con una decina di città e oggi sono più di 30. Sono città grandi, Milano l'hai citata tu, dove arriviamo adesso, Roma è un'altra, Roma tradizionalmente palazzo di esposizioni, e poi più avanti il The Tour, sono due delle tappe ormai consolidate della rassegna. Ma quello che ci piace ricordare di Mondovisioni è che riusciamo a raggiungere anche centri medio piccoli. Certo arriviamo a Bologna, Torino e altre grandi città, ma andiamo anche in centri più piccoli, anche molto piccoli, del Veneto piuttosto che della Lombardia, del Piemonte, e quindi la prospettiva è quella di ampliare sempre di più la rassegna, appunto perché sono molte altre le città di quelle dimensioni che potremmo toccare. Ci ostiniamo a pensare in questa chiave appunto di distribuzione nelle sale, siamo un po', come dire, un po' vecchia scuola, però insomma ci piace pensare che per film come questi, che riguardano questioni che ci toccano tutti, si possa ancora fare lo sforzo di uscire di casa, di incontrarsi, di usare la sala cinematografica anche come un luogo di incontro e di scambio, insomma, non vedere questi film chiusi nel proprio spazio intimo, domestico, insomma, ci sono un po' la chiave sbagliata per vederli. Sergio, i titoli vengono un po' da tutte le parti del mondo? Sì, la rassegna è di Internazionale, ma è anche naturalmente internazionale. Quest'anno il film, ma come sempre, diciamo, cerchiamo di coprire geopoliticamente temi e aree che ci sembrano importanti. Quest'anno andiamo dalla Brexit, che era un tema che non poteva mancare con Brexitania. Abbiamo fatto due puntate in paesi poco rappresentati, ma secondo me molto interessanti, che sono l'India, con An Insignificant Man, e un paese di cui si parlerà sempre di più nei prossimi mesi, come il Brasile, visto che sono in vista le elezioni presidenziali, con un film abbastanza sconvolgente come Entre Thomas e Bam. Abbiamo toccato anche temi che poi si sono rivelati di grandissima attualità, anche più di quanto potessimo immaginarci, come la questione del reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza, sono nelle sue varie versioni, con un film come Freelance Society, che fa il punto sorprendente sugli esperimenti che sono fatti e non solo recentemente in giro per il mondo su. E poi la cosa che forse la chiave più importante di lettura del programma di quest'anno è il tentativo di guardare un po' oltre all'emergenza migrazione, quindi guardare all'impatto che tutto questo ha sull'Europa. L'abbiamo visto nelle elezioni che ci sono state in Italia, ma non solo, negli ultimi mesi, quanto l'impatto, quanto l'immigrazione e di conseguenza purtroppo la xenofobia sono diventate chiavi di lettura dei fenomeni elettorali. Beh, con un film come Boiling Point, che arriva dalla Finlandia e ci dà un quadro abbastanza spaventoso della divisione profonda e del razzismo in quel paese, oppure come Stranger in Paradise, che è un film che invece è molto più vicino a noi, girato in Sicilia e mette in scena un po' la situazione, il rapporto tra l'Europa e i migranti richiedenti asilo appena sbarcati, abbiamo cercato anche di raccontare qualcosa che ci riguarda molto da vicino e anche dando delle immagini, delle prospettive sugli sviluppi futuri di queste problematiche. Sergio, ci dai anche tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? So che io ho utilizzato ad esempio cineagenzia.it con progetti Mondovisioni. Sì, cineagenzia.it è il nostro sito che fa un po' da collettore anche di tutte le proiezioni di Mondovisioni in giro per l'Italia. Tu appunto abbiamo parlato di Cineteca Emiliana Italiana e Spazio Oberdan che parte a fine mese, ma in questo periodo siamo anche a Bologna, siamo a Pordenone, a Vicenza, a Genova, a Piacenza, a Schio in provincia di Vicenza, le proiezioni cominciano a Gorizia e poi con Milano, in parallelo andremo a Torino, a Venezia, poi a Bolzano, insomma sono tante altre le situazioni. Ci tengo a citare anche Cosenza, perché spesso ci dicono che siamo soprattutto radicati al nord, è vero purtroppo, ma di sicuro che non è intenzionale. Non è colpa nostra, cioè stiamo cercando e proviamo in tutti i modi anche a portare la segna al sud, ma a questo proposito ricordo che Mondovisione è un progetto che funziona grazie alla collaborazione di chi localmente organizza la rassegna, per cui chiunque sia interessato in città grandi e piccole, in cinema, piuttosto che in ONG, associazioni culturali, biblioteche, scuole e quant'altro, a condividere questi film, a portarli nella propria città, può appunto andare su cineagenzia.it e contattarci e vi spieghiamo come si può fare, insomma, per condividere ulteriormente, per far circolare ulteriormente questo progetto e questi film. Benissimo. Allora, ricordiamo l'ottava edizione di Mondovisioni, documentari di internazionali 2017-2018. Una delle tappe sarà il Cinema Spazio Oberdan a Milano dal 26 marzo al 19 aprile. Un saluto, un ringraziamento a Sergio Fant di Cineagenzia. Sergio, ci sentiamo presto. Spero che sì, insomma, a breve, non tanto, ma quest'estate poi avremo la nuova rassegna di Mondovisioni e altri progetti di Cineagenzia, così spero possiamo riparlarne. Benissimo. Allora un abbraccio e a presto. Grazie, a presto. Ben ritrovato Maurizio Di Rienzo. Buongiorno a tutti. Con te per parlare di Italia Doc, la casa del cinema, a partire dal 6 marzo il nuovo appuntamento. Ci racconti un po', Maurizio? Sì, volentieri. È un ciclo di documentari italiani che dall'anno scorso abbiamo focalizzato un po' di più attraverso i percorsi ormai veramente antologici e vari, variegati del cinema del reale, su ritratti che qualche volta coincidono anche con delle persone dedicati a persone del mondo dello spettacolo e non del cinema e non solo. Quindi è comunque un ciclo di lavori, pomeriggio 17-17.30, il martedì e il giovedì a marzo e tre martedì ad aprile, quindi dal martedì 6 marzo al martedì 17 aprile, con repliche poi la domenica alla Casa del Cinema. Cominciamo con il lavoro di Pappi Corsicato, L'arte viva di Julian Schnabel, che è andato anche come evento nelle sale. È davvero un ottimo film, un ottimo sguardo pieno di vitalità e di informazioni sul poliedrico Schnabel, che un po' ha rivoluzionato l'arte insieme ad altri newyorkesi e non solo degli anni